Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. In questa puntata torniamo a parlare del Prestito della Speranza, iniziativa che è attiva in Diocesi di Padova fin dal maggio dell'anno scorso, quindi da più di un anno. Cos'è il Prestito della Speranza? Iniziativa nazionale promossa dalla CEI. Consiste in un prestito a condizioni agevolate per persone fisiche, famiglie e microimprese che abbiano difficoltà ad accedere al credito attraverso i canali normali, cioè le banche. Il fondo non eroga direttamente denaro, questo va sempre specificato, ma costituisce un capitale a garanzia dei finanziamenti che vengono erogati in questo caso da una banca, cioè dalla Cassa di Risparmio del Veneto. La convenzione è stata firmata a livello nazionale dalla Caritas e dal gruppo Intesa San Paolo, a cui Carive appartiene, in collaborazione con l'associazione Vobis, che sono i volontari bancari per le iniziative del sociale. Nel garantire il prestito, la CEI promuove l'inclusione sociale e lavorativa della persona, facendo leva sulla responsabilità personale e la libera iniziativa. Nella Caritas di Padova, ma come anche succede a Cittadella, Thiene, Monselice e Vigonza, sempre all'interno delle strutture parrocchiali, c'è un gruppo di 10 volontari che ascolta tutti coloro che chiedono di poter accedere al prestito. Raccolgono la documentazione necessaria e accompagnano nell'avvio di questo iter. Ovviamente bisogna fare tutte le verifiche del caso. Proprio in queste settimane, col termine dell'estate, Caritas Diocesana dà anche un'informazione più puntuale e specifica ai servizi sociali dei comuni della diocesi sull'esistenza operativa di questo prestito. La caratteristica principale è la garanzia di lavoro o prospettiva di lavoro. Il prestito vive su un'ipotesi di restituzione che può iniziare anche dopo 12 mesi dall'erogazione, cioè dopo un anno, ma che deve essere fondata su una prospettiva reale di ritorno, cioè non si danno direttamente o indirettamente soldi a fondo perduto, vengono appunto prestati però con la prospettiva che possano essere restituiti. Infatti si chiama Prestito della Speranza. Chi lo può richiedere, e anche questo è importante ricordarlo, persone fisiche, famiglie e anche microimprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, anche persone a cui eventualmente manca un anno per raggiungere la pensione o che fanno fatica a sostenere delle spese impreviste come problemi all'automobile, visite mediche, arretrati di bollette. Queste situazioni sono molto molto diffuse, molto di più di quanto noi possiamo pensare. Basta parlare anche con un qualsiasi assistente sociale, con i servizi sociali del comune, assessori ai servizi sociali, piuttosto che appunto direttamente con gli operatori della Caritas. Da maggio 2015, dicevamo, è attivo anche a Padova il Prestito della Speranza. Sono state inoltrate, compreso anche luglio di quest'anno, quindi poco più di un anno, quindi 15 mesi, sono state inoltrate alla banca 49 richieste di prestito, approvate con erogazione e finanziamento 43. Quindi 6 non sono state approvate, 41 di queste a privati per 141.250 euro, 2 a microimprese per 30.000 euro. La media dei finanziamenti è di 3.445 euro ai privati e di 15.000 alle imprese, appunto sono due, il conto è presto fatto. Il 70% dei richiedenti, attenzione, è italiano. Per poter accedere al prestito e anche verificare, insomma, a fare un primo colloquio, si può inviare la richiesta tramite mail a prestitosperanza@caritaspadova.it. Lo ripeto, prestitosperanza@caritaspadova.it, oppure telefonare ogni lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 al 392 986 2089. 392 986 2089, oppure contattare direttamente la sede della Caritas Diocesana di Padova 049 877 1722, 049 877 1722. Prestito della Speranza. I comuni appunto del territorio della Diocesi di Padova in questi giorni saranno contattati per presentare questo progetto e mettere maggiormente in contatto con esso le persone che ne hanno bisogno. Avete ascoltato? Prossimo tuo, Rubrica in collaborazione con la Caritas.